Scoop it up, scoop it up. Hey! America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Una voce che emerge dal passato, addirittura gracchiante come è regola che sia quando si vanno a scavare, no, nei trascorsi. In fondo era poi pienissimo XX secolo, ma era come se l'Occidente avesse bisogno di far gracchiare la voce di Mao Zedong, perché era qualcosa che arrivava così di lontano che sembrava un segnale da un pianeta sconosciuto. Poi sono trascorsi pochi decenni, ma gli scenari sono modificati in modo così radicale che davvero si tratterebbe di riusare la parola rivoluzione, se non che la stessa parola in questo ambito, come ben sapete, ha diverse applicazioni. Oggi abbiamo l'occasione di parlarne con un amico del nostro programma che ha professionalmente seguito a lungo la questione cinese, Fabio Cavalera, attualmente corrispondente del Corriere della Sera da Londra, il nostro ospite in studio. Buon pomeriggio Fabio. Buon pomeriggio e grazie. Grazie di essere qui con noi. Ha pubblicato un libro, un secondo libro sulla sua esperienza cinese. Il primo, che avevamo a suo tempo presentato, si chiamava Il manager dei bagni pubblici e altre storie di vita cinese, ed era una indagine, attraversamento, un'esplorazione della Cina vista un po', se me la passi Fabio, dal basso, attraverso la normalità, attraverso quel quotidiano che, come poi oggi magari accenneremo, continua a essere il più sfuggente di tutti quando si prova a parlare di Cina. Oggi invece, per Bompiani, manda in libreria un volume intitolato Repubblica impopolare cinese, sottotitolo I principi e i padroni della nuova Cina, dove invece lo sguardo si alza tantissimo perché va su fino al vertice, per cercare di capire come poi si declini in chiave cinese il rapporto con il potere, il rapporto con la leadership, il bisogno di personaggi centrali, significativi, che diano il segno, ma naturalmente poi diano anche qualche cosa in più, e su questo c'è qualcosa da dire. Cominciamo ad avvicinare siamo partiti, abbiamo messo quella piccola appunto gracchiante vocina di Mao Zedong, perché tutto lì comincia, e tutta comincia lì anche l'esperienza non contemporanea, ma diciamo moderna, dell'Occidente nei confronti della Cina. Poi è un'esperienza complicata, anzi sempre più complicata, Fabio. Devo dire che l'Occidente ha avuto un rapporto complesso con la Cina, e continua ad averlo, secondo me, un rapporto che formalmente è un rapporto di ammirazione, di fascino e di conflittualità politica, ma l'Occidente forse conosce ancora poco della Cina, nonostante la Cina si sia aperta in questi 30 anni di post-maoismo, nonostante sia stato e sia facile andare in Cina, nonostante sia facile avere rapporti economici con la Cina, però l'anima cinese, e il modo di vivere cinese, il modo di fare politica cinese, ecco, di queste cose si conosce ancora poco, l'Occidente conosce ancora poco. Continuano ad essere misteriosi, continuano ad essere difficili da comprendere, o vogliamo superare un attimo il gradino del politicamente corretto e dire che alla base di questa comprensione continua a esserci un diffuso sospetto occidentale? No, io credo che la Cina non sia misteriosa. Aveva ragione Chuen Lai a suo tempo quando, incontrando Kissinger, gli rispose: guardi che la Cina non ha proprio nulla di misterioso, basta che voi la osserviate bene e capirete forse qualche cosa e qualche cosa di più. Quindi non c'è nulla di mistero. Forse vanno superati certi stereotipi, che sono stereotipi culturali. Lo stereotipo culturale occidentale è quello di misurare una cultura che è un altrove, che non si conosce, secondo schemi occidentali, certo. Esatto, secondo nostri schemi. E allora, in questo senso, si può dire o che si conosce la Cina o che è misteriosa. Quindi si balla da un eccesso all'altro. Invece bisogna procedere, essere realisti, pragmatici. Bisogna capire che la Cina, come ha detto un famoso sinologo francese, è realmente un altrove, che mette in discussione tutti i nostri schemi intellettuali. La Cina non conosce valori come Dio, giustizia, libertà, che appartengono alla nostra cultura occidentale da 2-3 mila anni, e alla Cina appartengono altri valori che noi non conosciamo, e per cui l'Occidente fa fatica a mettersi in sintonia con questo altrove culturale. Ecco Fabio, nel tuo libro una delle cose che sottolinei con maggiore chiarezza è la non necessità, anzi in un certo senso l'atteggiamento guardingo che i personaggi di primissimo piano, quelli incaricati, quelli con il mandato di occuparsi, perché poi si ha fortemente questa sensazione di un mandato più che di un successo, di un conseguimento, di occuparsi della gestione del potere, abbiano poi, come dire, una trasparenza, se non una invisibilità biografica intensa, se ne sa poco e poco se ne parla al di fuori, quando invece poi siamo noi occidentali abituati, la vicenda di Barack Obama è l'ultimo grande esempio, no? A consumare in modo quasi ossessivo la biografia, la personalità, il carisma e quant'altro dei nostri personaggi emergenti. Questa differenza? Guarda, è una delle cose che più mi ha colpito nei miei 4 anni e mezzo di Cina, proprio questo, che mentre in Occidente sappiamo e consumiamo, come hai detto giustamente, consumiamo le biografie dei grandi leader o dei leader politici in modo quasi ossessivo, e allora sappiamo tutto per restare all'oggi di Barack Obama, di Sarkozy, della Merkel, di Berlusconi, sappiamo delle loro storie politiche e anche delle loro vicende personali. Delle storie dei leader cinesi non sappiamo assolutamente nulla, e quindi sappiamo in linea generale che Hu Jintao è il signore che ha in mano le leve del potere assieme a Wen Jiabao, le leve del potere cinese, ma non sappiamo da dove vengono, come si suole dire, che cosa fanno e dove vogliono andare. E cosa personalmente, che è quello che a noi è ossessione più che... E quali particolari di vita anche quotidiana osservano. Ecco, allora ho cercato in questo libro di aprire una prima finestra sulle storie di tutti i leader che sono succeduti a Mao Zedong, a cominciare ovviamente da Deng Xiaoping, che è un nome di cui si parla tanto ma del quale anche si conosce poco, per arrivare poi, per passare da Jiang Zemin, per arrivare ai leader attuali Hu Jintao e Wen Jiabao, e anche ai leader futuri, quelli che verranno dopo Hu Jintao e Wen Jiabao, perché la Cina, e questa è una sua particolarità, già conosce chi saranno i governanti e i leader dal 2012 al 2023. Credo che non ci sia nessun altro paese che... No, ma infatti ne parli nel tuo libro, ed è una prospettiva, come dire, che inquieta probabilmente, no? il lettore, lo spettatore occidentale, no? Questa programmazione prescritta difficilmente, no? Comprensibile. Certamente, questo inquieta perché è fuori proprio dai nostri schemi intellettuali pensare una cosa del genere, e invece rassicura i cinesi. Certo. Si sentono più stabili, sentono un maggiore equilibrio, e quindi per i cinesi è fondamentale sapere che cosa hanno davanti. Si viaggia su un binario tracciato, a maggior ragione oggi, perché la Cina è un paese che guarda al futuro. Certo. E non al passato, e quindi sanno già chi saranno sia il presidente della Repubblica Popolare Cinese dopo Hu Jintao, e chi sarà addirittura il capo del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato, il capo del governo che succederà a Wen Jiabao. È una prospettiva, ripeto, forse per noi inquietante, ma per i cinesi realmente inquietante, rassicurante. Senti, chiudiamo questa prima parte della nostra conversazione proprio tornando a Deng Xiaoping. Nel tuo libro, in un certo senso, illustri, spieghi le tappe del progressivo allontanamento, no, da quella figura cardine, da quel turning point che è stato naturalmente l'avvento di Mao e la sua grande ombra, e parli anche di cose meno note a noi occidentali, come per esempio questo piccolo discorso fatto di 500 ideogrammi, no? Che risale al dicembre 1978, dove tu identifichi un seme, come dire, poi molto fertile per l'avvento della Cina contemporanea. Noi conosciamo molte date della storia, questa è una data fondamentale per la storia cinese e non solo cinese, per la storia occidentale, 13 dicembre 1978. È una storia sulla quale si sorvola. Che cosa è accaduto il 13 dicembre 1978? Era stato convocato il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese per il 18 di dicembre, le date 18-22 dicembre. Prima del Comitato Centrale in versione ufficiale, lo stesso Comitato Centrale si riunisce per una sessione di lavori e di approfondimento. È molto importante perché prima di dare l'ufficialità e di avere la teatralità dell'ufficialità, i leader dell'evento devono confrontarsi fra loro e non si hanno ancora chiari i rapporti di forza all'interno del gruppo dirigente. E quindi il 13 si riuniscono e il 13 Deng Xiaoping fa un discorso che è fondamentale per la storia cinese successiva. E rivedere questo discorso è incredibile per certi versi, perché Deng Xiaoping era un uomo di lungimirante e lui in quel discorso che prende spunto da una traccia di 500 ideogrammi che è conservata negli archivi del Partito Comunista, i suoi appunti esatto, lui pone le fondamenta di quella che poi è stata chiamata la politica di apertura e quella che poi è stata la politica delle modernizzazioni e la politica delle riforme. Ma non solo pone le fondamenta, ma già lui vede lontano, perché vede quali saranno le difficoltà alle quali andrà incontro la Cina e già indica come la Cina dovrà superare quelle difficoltà. È un discorso straordinariamente attuale, sul quale la storia occidentale è passata sopra. Il passo avanti, se così possiamo dire. Torniamo tra pochi istanti a parlare con Fabio Cavalera del suo libro, vi ricordo il titolo, Repubblica in Popolare Cinese. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and blixen and old as reindeer pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, see your fairs, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear the sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with a Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. When the chimes ring out, when it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the line. So fill your hearts with the Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Peace on earth will come to all if we just follow the line. Let's give thanks to the Lord, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight, tonight. Buongiorno America. Nel XX secolo la Cina ha vinto la scommessa della modernizzazione. Nel XXI secolo le potenzialità di miglioramento sono intatte. Ma la gestione di un quadro tanto complesso richiederà correzioni strutturali profonde. Gli indicatori economici forniti dalle istituzioni internazionali, proiettati fino al 2020, sono favorevoli. Il tasso di crescita del PIL si manterrà alto, il processo di urbanizzazione accelererà, con una migrazione annua dalla campagna alla città di 15 milioni di unità. Contemporaneamente, però, per effetto dei piani demografici, si modificherà la composizione anagrafica del paese. Scenderà il numero dei giovani al di sotto dei 15 anni, oggi è di 1 ogni 4 cinesi, sarà 1 ogni 5, e aumenterà il numero degli anziani in età non lavorativa, sopra i 65 anni, oggi 7 su 100, saranno 12 su 100 nel 2020. Dunque, siamo in studio con Fabio Cavalera, corrispondente in questo momento da Londra per il Corriere della Sera, ma titolare di una lunga permanenza in Cina, che oltre che attraverso gli articoli sul suo quotidiano ha preso forma anche di libri. Un libro di Fabio è ora appena uscito da Bompiani, si intitola Repubblica Impopolare Cinese e indaga il formato, il significato e il percorso coperto dalla leadership cinese per dare forma al progetto col quale attualmente tutto il mondo si confronta, ma anche per le strade che, attraverso le quali ha provato a renderlo comprensibile e, come dicevamo prima, anche forse consumabile al resto del mondo. Perché poi Fabio, qui la realtà di fatto è che c'è, no, una problematica di adattamento, visto da qua, visto da Roma, visto dall'Occidente, dall'Italia, è ancora lunga, no, il cammino da fare per capire come il mondo si sta ridisegnando. Quell'eurocentrismo di cui parlavamo prima è un dato di fatto che risiede un po' nei nostri cromosomi, quindi tutto questo discorso resta sempre un po' più, no, al lato di quanto dovrebbe stare al centro del nostro presente. Che dici? Beh, certamente, cioè noi continuiamo a ragionare, a pensare secondo i nostri schemi, e ci passano davanti protagonisti non solo cinesi, ma protagonisti del mondo asiatico, di tutto il mondo asiatico, protagonisti del mondo americano, Sud America, certo. Con i quali dobbiamo fare i conti, e non solo i conti economici e politici, ma anche conti culturali proprio, cioè capire che non esiste solo l'Europa, che non esistono solo le capitali europee, ma che esistono altre capitali, soprattutto due, Washington e Pechino, che saranno sempre più centrali negli schemi della geopolitica mondiale. Ecco, tu tra l'altro in questo periodo appunto risiedi a Londra, ma non pensi che ci sia proprio una specie di permanenza, a proposito di Londra, di uno spirito colonialista che ci è rimasto un po' dentro la carne e che per esempio ci continua a far ad assumere, no, un atteggiamento di vaga considerazione esotica nei confronti. È difficile, no, recedere a tutto ciò e entrare in una logica invece magari più pragmatica. Guarda, hai detto molto bene, continua a esserci molto sottotraccia, questa presunzione colonialista, cioè il ritenere che il nostro modo di pensare sia comunque un modo di pensare efficace, universalmente efficace. Esistono altri modi di pensare che possono essere altrettanto efficaci, e il modo di pensare e di agire, ad esempio, cinese, si è dimostrato in questi ultimi 30 anni straordinariamente efficace. Una delle cose che metti in luce appunto è il ridisegno delle relazioni internazionali, sottolinei nell'apertura del tuo libro come proprio gli ultimi appuntamenti, i famosi G, no? 2, 8, 20 e quant'altro, si stiano poco alla volta riordinando in una gerarchia diversa e che oggi come oggi, alla fin fine, il confronto diretto tra i due grandi protagonisti del presente sia quello che conta, il resto sia un po' contorno. È questa la logica sulla quale dobbiamo ragionare per il presente? Sì, secondo me sì. Il G2 non è una istituzione formata, non ha l'abito di una istituzione o di un organismo internazionale, però nei fatti fra l'economia di produzione cinese e l'economia di consumo americano è evidente che vi è oggi una interdipendenza fortissima, non solo una interdipendenza di interessi economici, ma incomincia ad esserci una interdipendenza anche di interessi politici su tutta l'area del Pacifico. È evidente che il futuro del mondo non può prescindere assolutamente dagli equilibri Washington-Pechino e quindi non può prescindere da quello che si chiama G2. Certamente questo non significa che il G2 prenderà il posto del G20, forse ancora presto, ma l'asse, se così vogliamo chiamarlo, l'insieme dei rapporti, per meglio dire, Pechino-Washington è sicuramente centrale e vitale per gli equilibri della geopolitica. Ecco, cosa ne pensi dell'atteggiamento che la Cina, un po' a sorpresa, anche spiazzando un po' il resto del mondo, sta assumendo negli ultimissimi tempi in relazione alla questione ambientale? C'è stato addirittura uno scavalcamento a sinistra, come si diceva una volta, della Cina nei confronti degli Stati Uniti, che prudentemente, un passino alla volta, cominciavano a muovere alcuni ragionamenti. La Cina ha provocatoriamente rotto gli argini quando è stata seduta per anni, no, sul banco degli imputati. Devo dire che i cinesi sono abilissimi nelle relazioni internazionali e sono capaci di contropiedi inaspettati. La questione ambientale è una questione centrale oggi in Cina e per lo sviluppo cinese. La proposta cinese non è ancora chiarissima, perché la Cina dice di voler tagliare più che tagliare le emissioni carboniche, le emissioni di gas serra, dice di voler ridurre la intensità energetica per ogni unità di PIL del circa 40% entro il 2020. Ma che cosa significhi questo? Ancora non è molto ben chiaro. E come lo possa fare? Come lo possa fare? A che non cosa, è molto. Certo. Però la proposta di per sé è stata, come dire, se non dirompente, ma importante. Perché? Perché segnala comunque, questo è il messaggio che viene fuori dal sistema cinese, segnala che la Cina è consapevole che esiste una questione ambientale, che è reattiva, che, insomma, quindi che è disposta a sedersi a un tavolo, e questo è già un primo passaggio importante. Certamente bisognerà vedere che cosa farà, però ha segnalato e ha detto al mondo: guardate che rispetto a 5, anche solo 2 anni fa, un anno fa, quando eravamo fermi in trincea a difendere il nostro diritto di sviluppo e non volevamo parlare di questione ambientale, oggi siamo pronti a parlare. Siamo pronti a parlare e anche a trattare. Per concludere telegraficamente, esiste poi tutto un nodo di problemi che sono anche fonte di polemica, di critica, di accusa da parte dell'Occidente nei confronti della Cina, che riguardano diritti civili, reale democrazia, circolazione dell'informazione e quant'altro. In base alla tua esperienza, tu intravedi anche su questi argomenti una progressiva disponibilità a rivedere le proprie posizioni, quindi una Cina che in un certo senso si avvicina alla richiesta, all'esigenza occidentale? Guarda, io mi sottraggo al giochino degli ottimisti e dei pessimisti, lo dico nel libro, certo. Cioè gli ottimisti che dicono sicuramente la Cina andrà verso un sistema prima o poi democratico, e pessimisti che dicono prima o poi la Cina esploderà. Secondo me quello che si vede è che, uno, la Cina non conosce la democrazia parlamentare per come la conosciamo noi, e quindi pensare che possa evolversi verso un sistema di democrazia parlamentare è fuori luogo, è spericolato, non fa parte della loro storia. Ma che conoscendo la biografia dei leader futuri della Cina, quelli che verranno dopo Hu Jintao e Wen Jiabao, i quali hanno studiato molto in Occidente, i quali sanno come funzionano le cose poi in Occidente, non è che ignorano il problema. Ignorano il problema. Io credo che vi sarà consapevolmente una presa d'atto che qualche finestra di tolleranza dovrà essere aperta. Questo non significa che la Cina diventerà una democrazia parlamentare come noi la intendiamo. E allora grazie Fabio Cavalera per essere stato qui con noi. Ci ha presentato Repubblica Impopolare Cinese, i principi padroni della nuova Cina, edito da Bompiani, il saggio con cui approfondisce, come ci ha aiutato a comprendere in questi minuti, come e verso che cosa si stia orientando il potere cinese anche nel suo progressivo cambiamento. Grazie Fabio di essere stato con grazie, noi. Grazie mille a voi. Buongiorno America, come sempre torna su Radio 24 dopo 1:30 domani, ci sentiamo.